corso universitario UMED. La lezione di oggi è quale percorso per uscire dalla crisi dell'Europa, economico o politico, dalla crisi economica in Grecia e le prospettive di nascita dell'Europa. È un tema difficile, ostico e nato in un momento anteriore a oggi, alcuni mesi fa, un gruppo di volontari che hanno progettato il corso hanno avuto questa intuizione. Io volevo centrarla più come presidente d'Astro, che dice D'Astro sa, sulla figura di Spinelli, ma che naturalmente rimane un momento importante, come D'Astro dirà, perché c'è una ricorrenza particolare in questi giorni, in queste settimane, e abbiamo deciso invece di centrarla adesso. Poi dirò due o tre cose, ringrazierò naturalmente i nostri relatori e parto però da una lettera che mi fa piacere leggere brevissimamente due passaggi, che è il patrocinio del Parlamento Europeo, e il Presidente ci scrive che l'iniziativa è molto importante al fine di discutere e riflettere su importanti questioni come i diritti dei minori e l'impegno della comunità internazionale a favore del rispetto e del rafforzamento di tali diritti. Il Parlamento Europeo, noto per il suo impegno a favore dell'istituzione e del benessere dei minori, accoglie con favore progetti come il vostro, tesi a sottolineare l'importante ruolo dell'istruzione alla lotta alla povertà, alla discriminazione e all'esclusione sociale, garantendo in tal modo il futuro dei giovani conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio. Quindi anche lui entra sul tema poi che è il nostro. Nel contesto attuale, nella crisi economica, ho inoltre che il 9 aprile, cioè oggi, il corso sarà incentrato sulle possibili risposte alle sfide politiche ed economiche che l'Europa si trova ad affrontare. Data la chiara dimensione dell'iniziativa, è con grande piacere che accorda la sua manifestazione l'alto ragione del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Altre due o tre cosette prima di andare oggi. Sul Corriere della Sera, non so quanti di voi abbiano avuto modo di leggere, però c'è un tema che poi sarà il tema, il leitmotiv della nostra lezione, che è la problematica in questi giorni di estrema attualità. Comunque si dibatte sul tema euro sì, euro no. Dei economisti, alcuni amici anche dei relatori miei, ma soprattutto anche di altri relatori che oggi si saranno con noi, tra cui Giacomini Smaghi, Gian Paul Ticussi, Marcello Missori, Stefano Micossi, gli ex ministri Paolo Laschioppa e Saccomanni, leggo. E rispetto all'uscita dall'euro, dice: l'uscita dall'euro rafforzerebbe la parte meno competitiva del paese, quella meno aperta all'innovazione, maggiormente arroccata di difesa dei privilegi che non hanno più ragione di essere. Sarebbe una fuga di indietro verso una società più chiusa e introversa, che danneggerebbe soprattutto i più giovani e le fasce più deboli della società. Ritenere che si possa uscire dall'euro e al contempo rimanere a far parte al pieno titolo dell'Unione Europea è una pura illusione. Da un lato l'Italia potrebbe immaginare isolato, dall'altro l'uscita dell'Italia indebolirebbe gravemente l'Europa in una fase storica cruciale in cui ha semmai bisogno di compattezza per far fronte alla nuova instabilità politica che sorge alle sue frontiere. Arriviamo al tema di oggi invece, che vi abbiamo mandato tra l'altro questo comunicato, che quando con Michele e con Francesco abbiamo immaginato questa lezione, lui ha portato il taglio insieme agli altri amici colleghi volontari. Non c'era ancora la situazione ufficiale, che poi alcuni di voi, se avete avuto il tempo di leggere il comunicato che vi abbiamo inviato nelle ore 1, nelle ultime ore, date i dati drammatici. Il primo lo avete ricevuto, quindi giusto per memoria, il numero di bambini che erano a rischio di povertà in Grecia nel 2012 ha superato il 500.000. In particolare si è incrementato fino ad aggiungere 521.000 unità, che rappresenta il 26,9% di tutti i bambini rispetto al 23,7% del 2011. Poi i dati non li può, perché poi i numeri diventa poi difficile immedesimarsi essi. Comunque, in Grecia il numero di bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale è stimato in 686.000 e rappresenta il 34,5% del totale del 2012. Poi la difficoltà anche delle cose più elementari, che sono legate agli diritti all'infanzia, tipo il gioco, per esempio l'86,5% delle famiglie povere e greche con figlia dichiarato l'impossibilità possibilità di potersi permettere una settimana di vacanza. Ma la cosa più dura sono questi dati che adesso voi li avete ricevuti, ma nel 2012 il 52,6% delle famiglie povere con figli ha dichiarato la propria impossibilità di garantire a giorni alterni una dieta comprendente il pollo, la carne, il pesce o l'equivalente vegetariano rispetto al 44,3% del 2011. Parliamo di Grecia, e non faccio altre considerazioni di altri paesi, stiamo parlando di Grecia. Però volevo leggervi questo piccolo passaggio. 2013, l'urgenza invece c'è, quantomeno perché sono più di 2 milioni i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie povere e 600.000 di loro non hanno neppure la garanzia di 2 pasti fissi al giorno. Non è la Grecia. È Vincenzo Spadafora, mio predecessore, per cui ho questo stato presidente del Comitato Italiano per l'Unice, oggi garante per l'autorità dell'infanzia e dell'adolescenza, che domani presenta il rapporto al Parlamento Italiano, che dichiara e riporta questi dati che domani saranno pubblici e usciranno alla presenza del Presidente della Camera alla Camera dei Deputati. Francesco. Grazie. scelte tecniche, no, sono state scelte evidentemente politiche. I governi dei paesi membri, da quando è scoppiata la crisi nel 2007-2008, prima vi invito eventualmente ad andare a leggere le conclusioni dei consigli europei tra il 2007 e la fine del 2008, e sono conclusioni sorprendentemente ottimistiche. Ricordo ancora le conclusioni del Consiglio europeo del 2008, nel quale si diceva, voi sapete, qualcuno di voi sa che era stata lanciata la strategia di Lisbona nel 2000, poi nel 2005 ci si è reso conto che una buona parte di questa strategia non era stata attuata, poi nel 2005 hanno approvato una nuova strategia di Lisbona, e nel 2007-2008 i governi, i capi di Stato di Governo, i militari di Bruxelles, hanno detto prendiamo atto con grande soddisfazione gli esiti molto favorevoli della strategia di Lisbona. L'Europa ormai è avviata verso una fase di crescita, di sviluppo, di progresso nel corso dei prossimi anni. E poi c'è una fasetta nel 2008, la crisi della banca che abbiamo numerato nel 2007, nel 2008 c'è scritto questa fasetta nelle conclusioni del Consiglio europeo, dice stiamo assistendo con qualche preoccupazione ai rischi di rallentamento dell'economia americana, rallentamento, è scoppiata una crisi di produzione talmente vasta, che era più vasta della crisi del 1929, i capi di Stato di Governo avevano soltanto questa consapevolezza del rallentamento dell'economia americana. Dal 2007 al 2010 più o meno i governi hanno balbettato cercando delle soluzioni, hanno ritenuto che soluzioni non ce n'erano sostanzialmente. Fra l'altro ricordo che la Commissione europea è tanto vituperata nel dicembre del 2008 aveva proposto un piano di rilancio dell'economia che si chiama Recovery Plan, ha toccato tanto 180 miliardi di euro, che se fosse stato adottato in quel momento avrebbe inserito denaro fresco nell'economia dei nostri paesi, probabilmente consentendoci di rafforzarci e di affrontare in maniera più adeguata la crisi. Soltanto a partire dal 2010 hanno cominciato a prendere dei provvedimenti per cercare di uscire dalla crisi. Comunque, questi provvedimenti hanno il caro effetto, sempre per citare la stessa analogia di carattere sanitario, è come quando voi avete un organismo all'interno del quale scoppia una febbre improvvisa. Febbre improvvisa nel nostro caso è l'aumento dei debiti pubblici. Allora, di fronte alla febbre improvvisa ci sono tre tipi di soluzioni diverse. La prima è di dare al paziente esclusivamente della tachipirina per ridurre la febbre, quindi in questo caso per ridurre il debito pubblico. La seconda soluzione è quella di dare la tachipirina, sapendo che però la febbre è il sintomo di un'infezione, quindi non basta far scendere la febbre, e quindi accompagnare la febbre delle dosi più o meno massicce di antibiotici. È quello che i governi hanno deciso di dare ai paesi che avevano un alto livello di debito pubblico. La terza soluzione è quella di far passare la febbre e dare gli antibiotici per distruggere i microbi, cioè per distruggere in qualche modo una gestione sciagurata delle finanze pubbliche, però rendersi conto anche del fatto che l'organismo è gracile, era gracile già per sé, però ancora più gracile a causa della malattia, e che quindi insieme agli antibiotici per uccidere i microbi servono una forte dose di vitamina per rafforzare l'organismo. La forte dose di vitamina è un rilancio dell'economia attraverso gli investimenti pubblici, sia a dimensione europea sia a dimensione nazionale. Quello che è mancato in questi anni nell'Unione Europea è stata appunto la dose di vitamina, cioè quella che dovrebbe consentire di rafforzare l'organismo gracile. Soltanto recentemente i governi hanno cominciato a rendersi conto appunto dell'errore che è stato fatto di limitarsi alla tachipirina e agli antibiotici, e cominciano ad esserci dei segnali molto deboli. L'anno scorso i governi hanno adottato questo provvedimento per quanto riguarda la disoccupazione giovanile di 8 miliardi e mezzo di euro distribuiti evidentemente tra 28 paesi, non è che sia una gran cosa, e gli economisti cominciano a rendersi conto degli errori che sono stati fatti, concentrarsi con una scelta di carattere politico e non di carattere tecnico sulla questione dell'austerità e del rigore finanziario, in due organismi internazionali che certo non possono essere tacciati di essere frequentati, come avrebbe detto un Intanto la Banca Centrale è considerata anche lei come la causa di tutti i mali. Abbiamo fortunatamente il governatore che è entrato, il quale nel luglio del 2012 disse quella famosa frase, dice: noi faremo tutto il possibile per evitare il crollo dell'euro, e aggiunse: per il mini di un bienale, credetemi, sarà sufficiente. E a partire da quella frase di Draghi i mercati sono calmiati, e non c'è stata più speculazione finanziaria, perché la Banca Centrale ha annunciato che avrebbe acquistato titoli del debito pubblico seppure sul mercato secondario, e a partire da quel momento infatti la Banca Centrale ha cominciato a fare questi acquisti. La Banca Centrale dovrebbe proseguire in questa strada. L'altro giorno, non so se voi l'avete letto, sui giornali c'è stato questo annuncio sul Frankfurt e Allemagne Zeitung, secondo il quale la Banca Centrale dovrebbe acquistare 1.000 miliardi di titoli di debito pubblico sul mercato. Il problema è che qualche volta ci fida di più degli effetti annuncio che poi dei risultati concreti. Poi Draghi si è assoluta acqua nel viso di questa dichiarazione. Quindi la prima cosa che può fare la Banca Centrale è effettivamente di fare queste operazioni che consentono di alleggerire il peso degli interessi passivi da parte degli stati che hanno un livello di debito pubblico eccessivamente elevato. Prima operazione. La seconda operazione è che è possibile immaginare che si creino dei fondi nuovi a livello europeo, finanziati per esempio attraverso degli eurobond, dei project bond, che consentono di finanziare investimenti a dimensione europea, infrastrutture di trasporti, energia, ricerca, ambiente, le innovazioni, le nuove tecnologie, e che consentono quindi di immettere l'infa vitale nelle nostre economie, come dicevo prima, darci delle vitamine, diciamo così, in modo tale da consentire all'Europa di rilanciarsi dal punto di vista economico. Queste cose possono essere fatte a trattato costante. La seconda cosa è che noi riteniamo come Movimento Europeo, come federalisti, condividiamo insieme con Claudio Leone, che il Trattato di Lisbona non basta. Il Trattato di Lisbona è nato in una fase diversa della storia dell'Europa e del mondo, fra il 2000 e la Costituzione Europea, tra il 2002 e il 2007, poi è entrato in vigore nel 2009, è entrato in vigore fra l'altro quando la crisi era già scoppiata, e la realtà dimostra che il sistema costituzionale, diciamo, che è stato organizzato intorno al Trattato di Lisbona non è in grado di dare delle risposte adeguate ai problemi dell'Europa. Cioè serve, come ha detto recentemente Stefano Cottarato, un riordinamento costituzionale, cioè bisogna mettere in mano di nuovo alle regole fondamentali che ci governano, anche perché noi siamo in una situazione in cui intorno al tavolo, normalmente voi leggete sui giornali i nostri capi di governo che vanno in Bruxelles, poi tornano a casa e dicono: l'Europa ci ha chiesto di fare questo. Non è l'Europa che ci ha chiesto, sono stati loro stessi che se lo sono autochiesti. Quindi quando si dice ci vuole più politica, l'Europa è già nel senso che l'Europa si fonda su decisioni politiche dei governi. Il problema, per essere molto breve e poi concludere, è che intorno a quel tavolo siedono soltanto dei capi di governo di cui ciascuno pretende di rappresentare un apparente interesse nazionale. Cioè non c'è nessuno intorno a quel tavolo che rappresenta l'interesse dell'Europa nel suo insieme. Negli Stati Uniti d'America, intorno al tavolo di decisioni, c'è un capo dello Stato, che è Obama, il quale prende le decisioni quando è scoppiata la crisi. E gli Stati Uniti d'America non hanno immesso nel sistema bancario i soldi che noi abbiamo messo nel sistema bancario europeo, hanno immesso nel sistema 800 miliardi di euro, gli Stati Uniti d'America, che hanno consentito all'economia americana di riprendere a correre in qualche modo, nell'economia, non nelle banche. E allora perché Obama agisce come governo federale nell'interesse degli Stati Uniti d'America nel loro insieme, non nell'interesse quello che lo Stato degli Stati Uniti d'America. Il problema è che intorno al tavolo dei governi non c'è nessuno che agisce nell'interesse dell'Europa nel suo insieme. Ed è per questa ragione che noi federalisti riteniamo che sempre davanti alle tre strade di quelli che dicono che bisogna uscire dall'Europa. Avete visto che nelle liste che sono state presentate per le elezioni europee in Italia abbiamo raggiunto i record per tre liste che hanno nel loro no euro. Abbiamo quelli che dicono: rinchiudiamoci nella fortezza dell'Europa aspettando l'assalto degli altri europei. Io non sono molto favorevole a quell'appello sul Corriere della Sera, perché è l'appello di quelli che si chiudono nella fortezza, dicono esclusivamente che bisogna difendere l'euro senza rendersi conto che abbiamo intorno a noi dei problemi ben più gravi che uscire dall'euro comporterà la bomba atomica, tra l'altro non si può uscire dall'euro, bisogna uscire dall'Unione Europea, il trattato non ci consente di uscire dall'euro. Quindi da una parte ci sono quelli che vogliono uscire dall'Europa, dall'altra parte ci sono quelli che si chiudono la fortezza, c'è una terza strada, si è sempre detto nell'analisi che sono fatto che c'è sempre una terza via. La terza via è quella di imboccare una direzione diversa, cioè quella di utilizzare le elezioni del 25 maggio per indicare che ci sono delle forze politiche che vanno a l'Europa, hanno dato questo segnale per indicare che l'Europa può prendere una strada diversa, che è quella del rilancio economico, quella di una maggiore democrazia e quella di attribuire al Parlamento europeo dei poteri maggiori di quelli che il Parlamento europeo oggi ha, di fare della Commissione europea un governo che risponde democraticamente al Parlamento, non soltanto un organo, come posso dire, al servizio di governo. Insomma, è possibile avviare una terza strada. E allora in questo ha fatto bene il Calderone a ricordare Spinelli. A metà degli anni 80 l'Europa era in crisi, più o meno un po' adesso, un po' meno, insomma, viveva un periodo di crisi. Allora di fronte all'incapacità dei governi di riprendere il cammino dell'integrazione per il Parlamento europeo, sotto la guida di Spinelli si assunse la responsabilità di dire facciamo un riordinamento costituzionale dell'Europa. E fu il progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio del 1984. Io credo che da questo punto di vista bisogna ritornare a Spinelli, nel senso bisogna ritornare al metodo di Spinelli, al metodo democratico, chiedersi chi è il miglior architetto, perché quando si apre un cantiere, la prima cosa che si fa è scegliere un buon architetto. Gli architetti, i 28 architetti del Consiglio europeo hanno mostrato di essere dei dilettanti dal punto di vista della costruzione, diciamo. E quindi a questo punto se gli architetti che si sono occupati prima di costruire l'Europa ci hanno costruito un edificio, diciamo così, un po' fatiscente, a questo punto licenziamo gli architetti che sono stati incapaci e prendiamo un altro architetto. La mia opinione è che c'è un architetto collettivo al quale si può affidare anche il Parlamento per andare a leggere il 25 maggio del 2014, naturalmente facendo poi delle scelte che ci consentano mandare nel Parlamento europeo quei deputati che qualcuno ha detto che siano legislatori del futuro, non soltanto legislatori del presente. Ecco, in questo modo che io concepisco lo Stato dell'Unione. Grazie. Fatta di successi, è fatta di tantissime attività. attività, realizzazioni che in parte purtroppo molti di noi conoscono poco, per cui finisce molto spesso il dibattito tra queste due posizioni estreme, verso il dibattito che non aiuta a farsi un'opinione, non aiuta affatto, anzi generalmente si scade in situazioni che sono difficilmente, come dicevo prima, accettabili. Ritengo che per poter affrontare un tema così complesso bisogna innanzitutto immaginare se esiste la stessa strada indicata appunto da Astori, cioè la strada intermedia. Ora, io credo che questa strada esista sicuramente e va difesa ad oltranza, ma va difesa con argomentazioni valide, con una chiarezza nelle difesa di quello che va difeso, ma anche con una seria accusa a quello che non va assolutamente difeso, ma va modificato nel processo di integrazione. Il caso della Grecia è assolutamente evidente ed è il caso di un paese che ha affrontato problemi enormi, si trova in difficoltà estreme, il fatto di questa competitività non mi salva certo l'anima. Ma il problema è che il caso della Grecia ci insegna che restare in Europa alle condizioni in cui viene chiesto la Grecia è un suicidio. I dati che ci vengono riferiti da luce sulla difficoltà di dare cibo ai giovani, ai bambini, non è un segnale di poco conto, è un segnale di un fallimento, perché questa è la politica economica europea, un fallimento, almeno per quello che riguarda. Allora, la domanda che ci dobbiamo chiedere, che vale fare, è: ma perché la Grecia si trova in una situazione del genere? Perché non abbiamo fatto abbastanza? E qui bisognerebbe conoscere tanti pezzi di storia che ovviamente non completamente ricordare. Ma certamente è il frutto di tanti errori. Errori commessi dalla Grecia, certamente, quando entrando nell'Unione Economica e Monetaria, in realtà non dichiarò proprio le cose in maniera esatta. Ma non è assolutamente facile da realizzare, perché la contrapposizione, le divergenze si sapeva tutti che questo progetto di Europa è un progetto completo, è nato un progetto completo, perché è un progetto che ha avuto una lunga storia di costruzione. Qualcuno quando parla dell'euro immagina che tutto sia nato proprio pochi anni fa, sono 14-15 anni fa, non è vero, l'idea dell'Unione Economica e Monetaria risale a ben 30 anni prima, nel 1969, con il convegno dell'Aia. Quindi di fatto l'Europa si era già data come obiettivo di raggiungere una unione economica e monetaria molto tempo fa, non c'è riuscita perché le difficoltà di realizzare un'unione economica e monetaria si sono manifestate mille volte e hanno impedito che questo obiettivo si realizzasse probabilmente 30 anni fa, ma non si è realizzato neanche negli altri anni. Ci siamo arrivati dopo un faticoso e complessissimo processo che ha portato alla fine i primi 11 paesi a entrare nell'Unione Economica e Monetaria nel 31 gennaio del 1990. Un processo lungo, lento, fatto di tante cose che ovviamente caratterizzano questa struttura così, questa architettura così importante di quello dell'Eurozona. Ma è nato male, è nato incompleto, perché evidentemente le difficoltà di raggiungere questo obiettivo hanno reso complicato e anche difficile per tutti accettare alcuni, diciamo, elementi importanti, elementi che in particolare il grande responsabile, il grande fattore dell'euro è la Charles de Gaulle, che per 10 anni è stato presidente della Commissione Europea, che aveva costruito un modello di unione monetaria molto intelligente che in parte è stato attuato in parte no. Quindi, in sostanza, che cosa manca lì? Beh, quindi viviamo in una situazione nella quale i difetti dell'euro sono evidenti a tutti, e questo spiega anche l'atteggiamento dei Monti, che dicono in difficoltà usciamo, non sapendo minimamente che cosa significa uscire dall'euro, che problemi potrebbe avere il nostro paese, se dovesse per ipotesi sposare questa idea. Non solo il nostro, ma tutti i paesi che oggi ne fanno parte. Ma è altrettanto difficile restare nell'Unione Economica e Monetaria a queste condizioni. C'è un risparmio, non si può accettare l'idea che comunque continui a governare questo processo una politica di rigore così forte come quella che abbiamo seguito, addirittura abbiamo introdotto nella nostra Costituzione, come sappiamo, una parte del risparmio. Allora, qual è la strada? Ecco, la strada è complessa perché richiede due, a mio avviso, modestissimo avviso, due grossi elementi. Da una parte occorre completare il progetto di Unione Economica e Monetaria. Questa è, come dire, la base più importante. Non possiamo immaginare di sanare la situazione economica dei paesi che oggi si trovano in difficoltà perché non crescono abbastanza, perché hanno una politica di rigore che impedisce di fare investimenti per la crescita, se contemporaneamente non immaginiamo appunto di finalmente completare questa architettura che fin dall'inizio presentava dei problemi. È evidente che il grande artefice, il centro di questa eurozona è il comportamento della Banca Centrale Europea, è l'espressione più forte di un'integrazione che ha raggiunto il massimo livello possibile nei paesi più avanzati. Non c'è altra forma di integrazione più avanzata al mondo che quella che abbiamo cercato noi con fatica di realizzare con l'Unione Economica e Monetaria. Questo testo sui processi di integrazione dirà che l'Unione Economica e Monetaria è il massimo livello. Dopo questa, ovviamente, c'è solo l'Unione Politica. Bene. Allora, che cosa manca a questa realtà così importante che tutti noi viviamo nell'euro ormai da 14 anni? Innanzitutto manca il fatto che la Banca Centrale Europea deve necessariamente arrivare ad avere quelle caratteristiche che sono tipiche delle banche centrali nazionali, cioè la Banca Centrale Europea non può soltanto limitarsi a fare il controllore dell'inflazione. a soccorrere non solo le banche, sono anche naturalmente a soccorrere le banche, come l'autore di Chichero, tutti i paesi cosiddetti liberisti, ma a soccorrere l'economia, quindi a pompare denaro nell'economia per facilitare la pressione. Quindi prima cosa da fare ovviamente è cominciare a pensare come riuscire a dare queste caratteristiche alla Banca Centrale Europea, e questa sappiamo che per poterlo fare chiede una revisione dei trattati. Non è immaginabile che la luce quella che è lo statuto della Banca Centrale possa arrivare a questa condizione. Però questa è la strada. Ci sono evidentemente dei percorsi agevolati, non c'è dubbio che la fantasia del Presidente della BCE, sicuramente, unitamente a tutte le banche centrali dei paesi che fanno parte, 18, hanno condiviso questa strategia, si chiamano così le misure non convenzionali, cioè misure di politica monetaria non convenzionali. Meno male che naturalmente i precedenti Presidenti della BCE non avevano fatto ricorso a queste misure non convenzionali. E la Banca Centrale, come potete immaginare, la Banca Centrale Europea, che è la banca più importante al mondo dopo la Fed, ha un obbligo molto specifico, è quello di mantenere gli impegni che dichiara. La credibilità delle banche centrali è fondamentale per un ordinato funzionamento del mercato finanziario. Quindi la Banca Centrale, quando ha dato il primo messaggio che sarebbe intervenuta in maniera illimitata a difendere, intervenuta a sostenere il debito pubblico dei paesi più indebitati, solo non sul mercato primario, ma sul mercato secondario, solo questo ha in qualche modo arrestato, fermato, rallentato la speculazione che si stava orientando ovviamente sui paesi più deboli. Ma questa è una parte della verità, una parte che però richiede dei cambiamenti strutturali non indifferenti. C'è un secondo elemento che è molto importante. Non possiamo vivere in una riunione economica e monetaria immaginando che poi le banche possono, le banche ordinarie, le banche di credito, possono fare quello che vogliono. Ci vuole una unione bancaria, cioè ci vuole un sistema di controllo delle banche che deve essere affidato alla BCE. Questo ci siamo arrivati, è stato già approvato, l'aggiunta di un importante componente che mancava nell'unione economica e monetaria, che è l'unione bancaria. Però le modalità con le quali queste banche finalmente, dicevo, deve avere una funzione di controllo sulle principali banche europee è ritardata nel tempo. E questa ancora una volta è follia, nel senso che la globalizzazione, i mercati finanziari hanno bisogno di certezze, non di posizioni che saranno assunte qui a qualche anno, e gli anni sono parecchi. Allora dobbiamo anticipare tutta la regolamentazione e in particolare per quanto riguarda appunto i sistemi di sorveglianza sulle banche e anche i sistemi di risoluzione di crisi. Dobbiamo avere un sistema in sostanza che in qualche modo ci difenda dalla possibilità di ricorrere di incontro in nuove crisi che abbiamo appena passato e che non abbiamo ancora superato. Una seconda, la terza cosa importante è veramente il fatto che noi abbiamo bisogno di pensare che questo sistema monetario che abbiamo sia in grado, attraverso le operazioni finanziarie, di quindi, sostenere anche il debito dei paesi più deboli, più fragili. E c'è tutto un processo che la stessa Commissione Europea ha messo in piedi, presentando un progetto molto interessante per una vera e credibile unione economica e monetaria. Consiglio a tutti quelli che sono interessati andarsi a leggere questo rapporto della Commissione Europea, che è il primo rapporto funzionale della Commissione, condivide una parte delle idee che noi sostenevamo da tempo in altre istituzioni europee, in particolare la Comunità Economica e Sociale. Ma comunque la Commissione prevede la possibilità che la Banca Centrale Europea, un'istituzione da essa dipendente, possa sostenere una parte del debito pubblico dei paesi membri, oltre il 60%, e in questo modo chiaramente, essendo la Banca Centrale Europea che si fa carico di questo debito con emissioni di titoli del debito pubblico, la BCE, potremmo pensare a un allentamento, un abbassamento fortissimo dei tassi di interesse che naturalmente oggi in alcuni paesi sono a valori inconcepibili e assolutamente non vicini alla possibilità, come la Grecia, ma anche in altri paesi, di pagare il debito con un costo molto minore. In realtà potremmo trovare esattamente quello che fa la Fed, si viene finanziato. politica non aiuta la crescita, e non ci potrà mai uscire nei prossimi anni. Vedete che ogni anno, ogni 6 mesi, le previsioni sui tassi di crescita sono sempre rinviate, cioè la ripresa viene sempre rinviata l'anno successivo, lo facciamo da 3 anni, evidentemente qualcosa non funziona, quindi dobbiamo cominciare a pensare che accanto alle politiche di rigore, che in qualche modo sono anche uno stimolo a, io credo, a razionalizzare la spesa pubblica, io penso, nel paese, perché c'è uno spreco ancora incredibile nella spesa pubblica, quindi questo mette in moto dei processi rigorosi di razionalizzazione della spesa pubblica, ma allo stesso tempo dobbiamo accompagnare queste politiche di rigore che vanno però contenute con le politiche per la crescita. Allora io ho difficoltà a capire perché da una parte noi, quindi in qualche modo siamo il paese che più di altri ha realizzato uno degli obiettivi del patto di stabilità, quello di rafforzare la crescita economica, che è quello che ci diceva che noi dobbiamo avere, quindi, un debito pubblico che si riduce nel tempo, ma sostanzialmente noi abbiamo in realtà un attivo di bilancio al netto degli interessi, quindi non considerando gli interessi del debito pubblico, la differenza tra le entrate e uscite dello Stato è attivo, non passivo, e questa è una, come dire, un fatto virtuoso, si dirà certamente, ma noi siamo l'unico paese che ha questo attivo dei conti pubblici. Ora, e quindi noi stiamo ragionando del fatto che ovviamente non possiamo superare il 3%, che è uno dei famosi parametri di Maastricht, e quindi noi siamo dentro questo parametro, siamo intorno al 2,6, probabilmente al 2,8. Ma la domanda è, e questo forse dovrebbe essere posto l'attenzione, io lo auguro con il prossimo Parlamento europeo, con le prossime elezioni, che vi vedranno al Signore da tutti voi e da tutti noi, perché se non andiamo a votare, certamente lo attendano chi ha voglia e interesse di uscire da queste cose. Dunque, il Parlamento rinnova, la nuova legislazione che prende cuore, le nuove istituzioni che usciranno da queste importanti elezioni e dovranno indicarci questa strada. Ma la strada è semplice. Questo benedetto parametro del 3% non è nato a casa, è nato perché quando si è immaginato di costruire l'Unione Economica Monetaria, che stiamo parlando di un processo nato a metà degli anni 80, ebbene, i valori che allora si guardavano, che c'erano all'interno dei paesi, erano grosso modo questi, quindi non si è immaginato certo e non si è prevista certo la crisi degli anni 90. Nessuno aveva in mente la reintegrazione della Germania, il cambiamento della politica monetaria in Europa, quindi era assolutamente imprevisto tutto quello che è accaduto dopo il 1990. Però noi abbiamo messo in moto un processo in cui abbiamo preso dei parametri, e quelli abbiamo assunto come dei parametri assolutamente non superabili. Ma le condizioni economiche che sono emerse in Europa negli ultimi 14 anni, e non solo in Europa, ma in tutto il mondo, non sono condizioni, come dire, paragonabili a quello che è avvenuto nel passato. C'è sempre un tentativo che a me non sta proprio, non vorrei dire una parola forte, non posso dire se è un'aula universitaria, ma voglio dire, la situazione che si è venuta a determinare dopo il 2001 vede il mondo intero in condizioni totalmente diverse da quelle delle fasi precedenti. Qualcuno va sempre a cercare il passato per trovare soluzioni nel futuro. Il futuro è tutt'altro. Il futuro che nasce dopo il 2001 è qualcosa di diverso, non solo nel commercio, non solo nella finanza, non solo nella governance, non solo nella politica dei mercati, degli stati. E vediamo le crisi economiche, sociali, politiche, genere, di ogni tipo, di disuguaglianza e tutto il mondo. Quindi il mondo è cambiato. Pensare di andare a prendere soluzioni del passato è pura follia. Allora, in questa ottica, evidentemente quelle soluzioni che abbiamo trovato negli anni 90, quelle che sono state inserite nel trattato di Maastricht, non sono più accettate. Questo rigore del 3%. Ma che succede se passiamo al 3,2%? Ma nulla. Ma noi, al 0,5% in più di PIL, potremmo destinare agli investimenti, potremmo destinare all'occupazione, in particolare dei giovani. Cioè, non è che non ci sono meccanismi, cioè gli economisti vengono sempre presi come figure un po' non emblematiche, qualcuno anche porta ieri, di cui dice se ne dica mai. Non è così, non è così. Siamo pieni di informazioni, di dati, di metodologie, di modelli. Possiamo risolvere in buona parte quello che dovremmo poter realizzare, ma bisogna avere una decisione, cioè c'è stata una decisione politica, non economica. Chi parla di economia dice nonsense. La decisione vera è politica, come vogliamo completare l'unione economica monetaria. Prima ancora da parlare con certi interventi. Io sono con voi su questo aspetto, ma non ora. Noi ora abbiamo come obbligo necessario nei prossimi mesi, no anni, nei prossimi mesi, di completare l'unione economica con le cose che ho prima detto. Ma questa è la prima strada, la più importante, perché senza questo noi in Europa, l'unione economica, non potremo mai, probabilmente, rischieremo di trovarci in condizioni peggiori di quelle attuali. La seconda connessione molto importante, forse su questo livello io e Dasso abbiamo così dei chiesti, non lo so. Ma io lavoro con la Commissione europea dal 1972, quindi qualche cosina conosco di queste istituzioni. Bene, anche la Commissione europea, quindi le principali politiche economiche dell'Unione europea, che ormai interviene in tantissimi settori, sono molti comuni, ci sono molti, non solo la politica monetaria, c'è la politica di coesione sociale, c'è il mercato interno europeo, c'è tutto il complesso delle relazioni esterne dell'Unione europea, sono strumenti straordinari per gli economici. La comprensione del cittadino, perché se io vado in Irlanda la mobilità dei lavoratori, per favorire la formazione, sulla formazione potrebbero portare mille errori della Commissione. Abbiamo 28 storie diverse, non si costruisce un cittadino europeo, sa 28 storie diverse che impara in 28 scuole diverse. È chiaro che ci vuole un po' di sforzo anche da parte della Commissione per uniformare i programmi di formazione. Noi come italiani, per carità, siamo bravissimi in tante cose, in Europa, non insegniamo, quanti di noi hanno insegnato Europa in classe. Quando c'è la università secondaria, mai, o le superiori studenti. Io vedevo i programmi di mia figlia, io leggevo i libri di educazione civica e mi riferivo perché erano degli obbrobri. Però tutto questo va formato, senza una maggiore consapevolezza del cittadino europeo, però io questo dovrebbe andare a votare in maggio. Perché? Forse qualcuno di voi non sa che comunque voi quando andate a maggio a votare, non solo votate per un rappresentante di un partito, ma votate per il presidente futuro della Commissione europea. Dovete mettere nella sede il voto delle persone che sono voluto diventare il presidente della Commissione europea. Ma quanti italiani lo sanno? Allora è vero che c'è un processo un po' complesso per cui poi il risultato delle votazioni va al Consiglio europeo, il Consiglio europeo propone al Parlamento sulla base delle indicazioni del voto il candidato che il Parlamento poi effettivamente vota. Sì, però siamo noi cittadini europei che dobbiamo esprimere il nostro voto per il candidato che esprime l'ideale che abbiamo noi in Europa. E questo è un compito che è la prima volta che ha portato il sbocco, ci consente di essere sono tanti elementi che compongono questo quadro. Per quello parlare oggi di Europa è molto più difficile ed è più facile prendere posizioni estreme, di volete questo o esco, senza capire che questo meccanismo se necessario richiede una complessità enorme di problemi che vanno proprio solo. Però ci vuole coraggio, ci vuole trasparenza, ci vuole informazione, ci vuole anche una capacità dei nostri leader politici forse finalmente di esporre quali saranno le cose, ricordando le difficoltà che noi abbiamo. Se vogliamo un'Europa diversa, dobbiamo anche essere noi diversi di comportamento. Grazie. Grazie, Umberto Piuzzi. A questo punto la parola al consigliere Rampaz, della direzione generale dell'Europa del Ministero Affari Esteri, che tra le varie cose ci racconterà, tra quelle che forse non conosciamo ma che sui giornali molto si discute, questi servizi della presidenza italiana. Che cos'è tutto ciò, caro consigliere? Buonasera a tutti e grazie per l'invito, sempre un'occasione importante quella di confrontare le idee. Assume normalmente fase particolare, all'indomani delle elezioni del Parlamento europeo, è in processo di nomina della nuova commissione, il presidente della commissione, dei nuovi commissari, del nuovo alto rappresentante della politica estera, che è anche, ricordiamo, vicepresidente della commissione, e l'avvicendamento anche alla guida del Consiglio europeo. Sapete che il presidente Barroso poi cesserà le sue funzioni alla fine di novembre, e quindi l'Italia in qualche modo dovrà traghettare le istituzioni dell'Unione europea per la prima volta dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Avete già sentito che le elezioni del Parlamento europeo questa volta assumono un valore particolare, non soltanto per le polemiche sull'unione economica e monetaria, sulla sorte dell'euro, sulla difficoltà dell'Europa, dell'Unione Europea a comunicare le sue realizzazioni, le cose positive che contrariamente si fanno, ma anche il valore, che il professor Teruzzi ricordava giustamente, del voto per l'elezione al Parlamento europeo, quello di un'indicazione ai capi di Stato e di Governo, per l'indicazione appunto del nuovo Presidente della Commissione europea. È un passaggio fondamentale, perché anche qui è stato già ricordato che la Commissione chiamata ad assumere, a riappropriarsi, forse meglio dire, di quel ruolo propulsivo che nell'architettura dei trattati appartiene all'esecutivo, come quello che si chiamava l'esecutivo comunitario. È un ruolo fondamentale per il futuro dell'Europa, e il proprio futuro dell'Europa è uno dei temi che il governo italiano intende proporre all'attenzione degli altri stati membri durante il semestre. Non è un compito facile. La visione a lungo termine credo che sia condivisa, quella di un'Europa finalmente soggetto politico, di una struttura federale. Certo, una visione che è propria delle forze che sostengono attualmente, ovviamente, il governo attualmente in carica. Non è certo una visione che può considerarsi condivisa da parte di tutti i 28 Stati membri. E fare in modo di iniziare un processo di analisi, di riflessione, ma anche di realizzazioni concrete, è forse la sfida principale che attende la nostra Presidenza del Consiglio, che però può portare risultati proprio per il ruolo che la Presidenza italiana assumerà nel traghettare il passaggio fra le nuove, le vecchie e le nuove istituzioni. Quindi l'obiettivo è quello di aprire una discussione, di cercare di fissare un percorso e possibilmente di individuare degli obiettivi. L'ambizione è quella di arrivare, sempre che il nuovo Presidente del Consiglio europeo sia d'accordo, al Consiglio europeo di dicembre con un lascito alle presidenze e alle istituzioni che continueranno a lavorare nei prossimi anni affinché questo processo possa continuare. Il professor Tiburzi raccomandava che l'obiettivo immediato è il completamento dell'Unione Economica e Monetaria. manca la dimensione sociale, l'unione fiscale non è ancora nella prospettiva degli Stati membri, c'è un grave problema di legittimazione democratica, è un problema che ha due aspetti. Facce della stessa medaglia, e da un lato c'è ovviamente il problema di partecipazione, l'evidenza che le decisioni assunte anche a livello europeo si fondino effettivamente sulla condivisione dell'elettore, del cittadino europeo. Quindi quello che che definisce delle linee generali e delineare questi obiettivi significa appunto agire in modo molto concreto dal punto di vista politico all'interno del Consiglio europeo, ma anche dal punto di vista di favorire quei rapporti, quella creazione di clima di rapporti del singolo fiducia, non solo tra gli Stati membri, ma anche tra le istituzioni. Quindi l'apporto del Parlamento europeo nel seguire l'approvazione di misure legislative sarà fondamentale, come fondamentale sarà la scelta della Commissione di adottare dei progetti di regolamenti che siano rispondenti a questa nuova esigenza. A medio, a lungo termine, naturalmente vi è l'obiettivo di rivedere la struttura dei trattati per quanto riguarda i vincoli massimi e di renderli più rispondenti alla realtà. Parlo di obiettivo non immediato perché dobbiamo comunque tenere presente che all'interno della aree anche dell'opinione pubblica che non condividono questa prospettiva. Quindi un lavoro che richiede tempo, richiede pazienza, ma richiede anche molta tenacia. E su questo credo che l'amministrazione italiana, la rappresentanza permanente a Bruxelles, il governo, il suo insieme, stiamo lavorando per creare quelle condizioni necessarie a iniziare il lavoro, la cui necessità è riconosciuta anche da quelli che non vedono, che non condividono gli stessi obiettivi. Ormai in tutti gli Stati membri c'è la consapevolezza che il sistema così com'è non può continuare a funzionare. Sono evidenti le crepe nel processo decisionale che derivano da trattati di Lisbona. Come affrontare queste crepe? Ovviamente sarà compito dei nostri capi di Stato e di Governo da un lato, dei nostri parlamentari di Governo dall'altro, e trovare quell'equilibrio che possa consentire al processo di integrazione di proseguire. L'alternativa evocata da quei movimenti che proclamano il ritorno agli stati nazionali, l'uscita dalla moneta unica, se non addirittura l'Europa delle cosiddette piccole patrie, sono, oltre che sostanzialmente antistorici, anche portano ad una situazione insostenibile dal punto di vista economico. Ricordiamoci che, ci piaccia o meno, l'interrelazione economica a livello mondiale è una realtà. Le scelte politiche a livello locale hanno un'influenza limitata appunto a livello locale. Quindi se riusciamo a salva naturalmente l'esigenza di garantire la partecipazione democratica dei cittadini in processi decisionali, rendere questi processi il quanto più possibile credibili a livello internazionale, tanto più l'Europa potrà svolgere il ruolo sulla scena internazionale necessario alla tutela degli interessi dei cittadini. fare questo, naturalmente c'è bisogno che il quadro di politica estera dell'Unione Europea sia credibile e che tutti gli strumenti a disposizione, quindi anche le competenze della Commissione per le materie che ricadono nella sua competenza esclusiva, siano utilizzati in modo sinergico. E qui ritorno a una delle cose che avevo fatto cenno all'inizio. Ricordiamoci che l'altro rappresentante per la politica estera di sicurezza comune è anche vicepresidente della Commissione. Nell'auspicio del governo italiano, nei nuovi equilibri che andranno a creare con la nomina delle nuove istituzioni, l'altro rappresentante della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe poter svolgere appieno il ruolo di vicepresidente della Commissione e quindi utilizzare anche gli strumenti a disposizione della Commissione per rendere più efficace quella che fino adesso è stata una politica estera ancora abbastanza drammatica. Io mi fermerei qui, vi ringrazio per l'attenzione, naturalmente chiedo di rispondere. Trasformare il pensiero, vuol dire negativi, a un'energia positiva. lasciare europeo, dire così. La domanda è: quali sono i mezzi che possono trasformare questi pensieri negativi a un'energia positiva? Buonasera, io avrei due domande in realtà. Una riguarda, a proposito dell'utilizzo dei fondi strutturali da parte delle regioni economicamente standardizzate, ritenete che l'utilizzo, lei diceva professore che probabilmente la responsabilità potrebbe essere condivisa sia da parte della Commissione europea nella formulazione di, diciamo, di progetti, di bandi, di call, diciamo locale, c'è cioè una responsabilità attribuibile anche ai rappresentanti locali nel non saper gestire questi fondi. Per esempio, un dato secondo me importante è che per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo relativo alla Sicilia, per quanto riguarda la formazione, sulle 5 misure che sono state predisposte dall'Unione Europea, soltanto una è stata attivata e i fondi sono in scadenza l'anno prossimo, esattamente a fine aprile. Quindi diciamo, ritenete che la difficoltà di questo utilizzo sia soltanto rilevata a livello italiano o anche da parte degli altri stati europei c'è cioè questa difficoltà? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, osservazione, riguarda invece una promozione, diciamo, dei sondaggi che ha lanciato la Commissione europea ultimamente tramite Europe Direct sul territorio, e il sondaggio riguarda l'opportunità di votare, per esempio di dare la possibilità a un italiano di votare un rappresentante di un altro Stato. Ritenete che tramite questa possibilità si potrebbe incentivare una politica sociale in maniera più diretta? Buonasera, io mi chiedo al professore che ha parlato di un quattro fiscali diversi. E se lei crede che sia effettivamente realizzabile un regime fiscale unico in tutta l'Unione Europea e se non ci sarebbe una eccessiva limitazione della sovranità nazionale per quanto riguarda proprio la decisione all'interno del proprio territorio con le tasse applicare o meno. Thank you. sentire quando eravamo 15, quando improvvisamente siamo quasi raddoppiati, certamente questo ha introdotto una serie di paesi, naturalmente il processo è positivo, però ha introdotto paesi molto diversi, per cui non è facile trovare accordo su molte poche linee di sviluppo del pensiero. Persona che è intervenuta dicendo che noi manchiamo progetto, il processo, una politica condivisa con uno Stato membro, e poi attuare dalle regioni che sono i destinatari di queste risorse. E avendo fatto il consulente di qualche governatore di qualche regione, mi sono reso conto che i problemi sono enormi, difficilissimi da risolvere. Sono come sempre più problemi nella testa, non nelle. Perché non è che ci manca qualche cosa, perché abbiamo tutti gli strumenti, ma la capacità di comprendere che i soldi non sono gestiti da chi amministra. I soldi devono essere gestiti sì da chi amministra, ma nell'interesse della popolazione. Io do i soldi a una regione perché possa risolvere i problemi di squilibri sociali, infrastrutturali, civili, eccetera, scuole, ospedali, sanità, o anche economici, sostegno, per cui e come dire le persone sono affaggiate. Ma questo non è proprio sempre nell'ottica di un governo sociale europeo, credo che abbiamo dato più una leva sul fondo sociale europeo che non effettivamente formato persone adeguate ad affrontare i problemi della conversione fiscale di una qualità della formazione superiore. Dunque ce la curassi nel prossimo qualche settennio qualcosa che la Commissione ha proposto dei nuovi regolamenti che sono stati approvati, ma io non vedo tanti cambiamenti, perché i programmi si trovano, almeno le nostre regioni di emergenza, si trovano ancora in grandi problemi. Il rischio di questo è che proviamo, se non spendiamo questi soldi, siamo fuori, perché probabilmente dopo il 2020 saranno altri paesi, saranno più diritti di molte delle persone, quindi anche l'ulteriore a sostegno delle persone che ci avranno, perché non abbiamo mai usato questa capacità di gestire in maniera efficiente, anche il fatto per non fare abbastanza di difficile. Grazie, io prometto una differenza diversa da un seduto scale diverso con Umberto e invece la dimensione europea. Ho fatto un'esperienza in questi anni che mi ha portato a avere un approccio alla questione di cui si discute forse in parte diverso rispetto a quello che è comune, a questa visione che dimensione obiettivamente, ma la realtà è questa, che può essere abbastanza desolante e senza speranze. Intanto io quando ero la vostra età, mi ero impegnato in una dell'organizzazione giovanile di un partito, ne ero diventato responsabile internazionale. Poi a un certo punto mi sono reso conto che nell'essere responsabile internazionale, quindi girando un po' per l'Europa, mi sono reso conto che c'era una serie di problemi reali che noi cercavamo di affrontarli insieme con la dimensione europea. O questi problemi non si sarebbero risolti. E mi sono anche reso conto, all'inizio degli anni 70, avendo un minimo cominciato a avere un minimo di differenza nelle istituzioni europee, che le istituzioni europee, così come erano, non erano in grado di dare una risposta a questa necessità di risolvere questi problemi insieme. E allora ho deciso di abbandonare quel partito politico, quell'organizzazione giovanile, dall'altro momento incontrato sulla strada di Leo Spinelli, e mi sono reso conto che la strada giusta è quella che mi indicava Spinelli, cioè quella in base alla quale se le istituzioni, così come la strada concepita nei trattati di Roma, non erano in grado di dare le risposte, quelle istituzioni bisognava cambiarle. E allora ho cominciato a lavorare con Spinelli, avevo 2 anni di voi, nel Parlamento europeo. Quando ho cominciato a lavorare con Spinelli, siamo qua esattamente nella stessa situazione in cui ci trova oggi, quando si parla di queste cose, che ci dice primo quello che serve la volontà politica, basta la volontà politica per risolvere i problemi. Allora ci sono molti che ritengono che la volontà politica è qualcosa che discende dall'alto, che grazie alla volontà politica i problemi si risolvono. Ora in realtà è un po' più complessa, nel senso non basta la volontà. Se la volontà politica non si fonda su dei meccanismi che sono sempre efficaci e democratici per tradurla in politiche, leggi, azioni, norme, eccetera, la volontà politica non va dalla sua parte, si arresta di fronte a un meccanismo che non funziona. De Boer, che è stato presidente della Commissione per 10 anni, ha qualificato l'Europa come un ingranaggio. Ora l'ingranaggio è fatto per funzionare se questo bilancio si applica a certe dinamiche, se le dinamiche diventano più ampie e più complesse, quel bilancio si inceppa. E infatti l'ingranaggio però si è inceppato, perché quell'ingranaggio è stato inventato dai padri fondatori per realizzare il mercato interno, e quando abbiamo caricato su questo ingranaggio dei problemi crescenti, a un certo punto dell'ingranaggio si è inceppato. E allora c'è qualcuno che ci continua a dire cerchiamo di mettere in piedi una volontà politica diversa, e però la realtà ci dimostra che questo non basta. Allora quando con Spinelli all'inizio degli anni 80 abbiamo lanciato il progetto che poi ha portato al trattato del 1984, ci siamo trovati circondati da esperti, giuristi, economisti, politici, Buoca, eccetera, e poi ci continuano a dire, cioè, trattati di Roma sono lì, sfruttateli, perché dovete impegnarvi in una strada così complessa di modificare i trattati, non porterà a nulla, e noi abbiamo dei problemi urgenti da risolvere. Allora, ripeto quello che ho detto prima, cioè intanto le due cose non sono in contraddizione, come sembra, ci vorrebbero fare apparire. Intanto cominciamo a sfruttare i trattati come esistono, però parallelamente cominciamo a vedere quello che deve essere cambiato nei trattati, perché il meccanismo non si incende. E allora, quando noi abbiamo approvato il progetto dell'84, abbiamo scritto in questo progetto una serie di cose che allora sembravano delle cose fuori dal mondo. Oggi, se voi le vedete, voi direte, ma in fondo sono cose talmente banali, la cittadinanza europea, la commissione del Parlamento, la carta dei diritti, la personalità giuridica dell'Unione. Se voi andate a leggere questo progetto, voi vi rendete conto che la maggior parte delle cose che noi abbiamo fatto allora, se noi fossimo rimasti legati a questa opinione secondo la quale basta la volontà politica e bisogna sfruttare i trattati come si usano, noi saremmo rimasti ai trattati di Roma e probabilmente non avremmo fatto tutti questi passi, ma fortunatamente noi siamo stati un po' cocciuti e abbiamo ritenuto che la strada che noi avevamo indicato era molto più realistica di quelli che vi dicono che non serve, è troppo complicato modificare i trattati. Fortunatamente c'è stato il progetto Spinelli. Penso che il progetto Spinelli è stato inserito nei trattati, l'atomico, il trattato di Maastricht, il trattato di Amsterdam, il trattato di Amsterdam, questo passo. In questi trattati sono state inserite delle norme in materia sociale, per esempio, che hanno rafforzato il modello sociale europeo, che certamente non è sufficiente, ma è certamente molto di più di quello che c'era nel 1957. Abbiamo introdotto le norme che consentono ai sindacati in qualche modo di ottenere qualcosa di più di quello che avrebbero ottenuto con i trattati precedenti. Allora oggi noi ci troviamo in questa situazione, che è quella che abbiamo detto all'inizio. Intanto sfruttiamo i trattati così come sono, però ci sono una serie di cose che con i trattati attuali non si possono fare. Prendete soltanto per esempio la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, fra le altre cose, non ha due poteri, che sono quello di essere prestatore di ultima istanza e quello di intervenire sul mercato dei cambi. Allora io voglio dire che la Banca Centrale Europea deve essere più forte, ma se la Banca Centrale Europea non ha questi due poteri, non va da nessuna parte. Allora su questo bisogna modificare il trattato, altrimenti rimaniamo con le mani legate. E allora, di fronte a queste cose, arrivo alla conclusione, ci sono due modi di reagire. Il primo modo è dire che la battaglia politica non deve essere condotta, ed è il modo migliore per perdere la battaglia. Quelli che dicono la battaglia non dobbiamo farla, la perdono di partenza, sono perdenti di partenza quelli che la battaglia non fanno, sono dei sconfitti per natura quelli che dicono la battaglia non si può fare. Poi ci sono quelli che dicono la battaglia di farla, e allora quando uno la battaglia non la può perdere, la può vincere, c'è il 50% di possibilità. Il primo, quello che dice di non farla, al 100% dei casi la battaglia la perde. Il secondo, quello che dice di farla, può perdere, la può vincere. Io con la mia esperienza in questi anni sono riuscito, insieme a tanti altri, soprattutto a Spinelli, a portare a casa alcuni risultati che in altri tempi potevano essere immaginati. Per esempio, a un certo punto noi abbiamo pensato che l'Europa dovesse essere dotata di una carta dei diritti fondamentali. Siamo venuti al Parlamento, gli dicono ma la cosa non ci interessa, eccetera. Poi siamo venuti al governo italiano, il quale ha capito che quello era il momento di lanciare l'idea che l'Unione Europea dovesse dotarsi di una base di diritti, e oggi l'Unione Europea ha una carta dei diritti fondamentali che è il più bel testo di diritti che esista al mondo. Poi naturalmente bisogna applicare un altro elemento, poi su questo dobbiamo anche noi cittadini, giustamente, è stato detto già anche dal basso, dobbiamo introdurre degli strumenti di democrazia partecipativa. E allora che cosa abbiamo inventato noi nel movimento di cui faccio parte? Di inserire nel trattato un articolo, che è l'articolo 11, a cui nessuno pensava, che è quello di dire applichiamo di nuovo il sistema che dà la possibilità ai cittadini di chiedere all'Unione Europea di legiferare in dei settori in cui l'Unione Europea non ha ancora legiferato. L'iniziativa dei cittadini europei l'abbiamo inventata. Oggi sarà trattato, ci sono stati 1.700.000 cittadini europei che hanno chiesto alla Commissione di legiferare nel settore dell'acqua e dei servizi idrici, un settore molto importante dal punto di vista dei servizi pubblici. La Commissione europea, che è molto sensibile a queste cose, si poteva anche pensare, di tutte le cose che ci siamo detti e via, che ci sono state dette, che la Commissione europea sarebbe rinchiusa nella sua fortezza burocratica e non avrebbe risposto. Invece la Commissione europea ha risposto positivamente. La Commissione europea sta preparando degli atti normativi per introdurre nel sistema europeo un servizio pubblico, in materia di acqua, di servizi idrici e non c'era. Beh, il risultato di questo l'abbiamo ottenuto. E ci sono altre iniziative che stanno oggi sottoposte alla Commissione e alle quali probabilmente la Commissione europea risponderà positivamente. Allora, ecco, ci sono delle cose che si possono fare, vale la pena di farle. Allora io dico, utilizziamo. Però i problemi di cui abbiamo discusso oggi, giustamente di analizzare il professor Triunzi, sono legati anche al fatto che certe cose con il sistema attuale non possono essere fatte. Allora, uno che abbiamo questo sistema, l'esperienza di questi 5 anni dei governi che hanno affrontato la crisi e non l'hanno risolta, deriva proprio dal modo in cui l'Unione funziona o non funziona. Allora, o noi in questo modo lo cambiamo, o noi continueremo a vivere in questa situazione. Può darsi che fra un anno non usciremo solamente dalla crisi, però fra 2 anni ricadremo probabilmente in una crisi che è ancora peggiore di quella nella quale ci stiamo vivendo. Allora, certo, utilizziamo le cose che esistono, però o noi cambiamo l'ingranaggio, oppure la prossima volta l'ingranaggio si incentrerà un'altra volta. E allora, da questo deriva la necessità di cogliere l'occasione delle elezioni europee e lanciare il discorso di modificare il trattato. Abbiamo già modificato i trattati dall'atto unico del 1987 a oggi, e abbiamo già modificati 6 volte, quindi non è che un'operazione impossibile da fare. E ogni volta che sono stati modificati si sono fatti dei passi avanti, non dei passi indietro. Bisogna rendersi conto anche di quello, perché molti dicono: ah, se noi modifichiamo i trattati saremo un passo indietro. Però poi può essere di responsabilità di decidere, diventa forte. Ci si rende conto che indietro non si torna, che si torna indietro l'Europa pagherebbe gravemente i risultati di tornare indietro. Ogni volta si è fatto un passo in avanti, piccoli, naturalmente, graduati, con prudenza, perché bisogna sempre essere prudenti. La comunità è stato un passo in avanti, Maastricht, Amsterdam, la Costituzione Verde, ogni volta si è fatto un passo in avanti. Certo, è un passo, diciamo, non adeguato ai problemi del momento. Infatti ogni volta i governi hanno modificato il trattato, 2 anni dopo si sono resi conto di quella che avevano fatto con passata, e allora hanno riaperto un altro negoziato. Questo fa vedere un po' la mia idea di governo. E però ogni volta si sono resi conto che bisogna fare un passo in avanti per i governi. E allora ne abbiamo fatto 6 volte, ne faremo una 7ª. Certo, naturalmente, come ho detto all'inizio, questa 7ª volta cerchiamo di non ripetere gli errori delle altre volte. Se noi ci affidiamo soltanto ai governi, i quali per natura ciascuno difende l'apparente interesse del proprio paese, il passo sarà graduale e sarà probabilmente inadeguato. Se noi invece ci affidiamo a un organismo che rappresenta l'interesse dell'Europa nel suo insieme, che è il Parlamento Europeo, probabilmente quando il progetto Spinelli 184 fare un salto maggiore in avanti. Spinelli dice, e concludo, che è bene fare la politica di piccoli passi, come molti mi dicono, fare pieno di persone moderate, sagge, che vi dico che bisogna fare la politica di piccoli passi. Però i piccoli passi possono essere fatti soltanto se si hanno delle buone gambe, chiedete a un alpino. Se un alpino non ha delle gambe, piccoli passi non può fare, sarà gracile con le sue gambe. Allora Spinelli diceva, diamo delle buone gambe all'Europa per consentire all'Europa di fare i piccoli passi. Le buone gambe sono le buone istituzioni, che funzionano in un certo modo. Le istituzioni di oggi funzionano male, funzionano molto male. Tutte le cose che sono state dette mostrano ancora una volta che funziona. abbiamo